costa 600, hai capito? 610. Ma stanno pagando, qual è il problema? No, mi ha rotto un po' le scatole, non voglio capire un po' perché mandano questa bolletta così, senza rateizzare, senza niente, una bolletta da 610 euro, mai ci sono matti. Perché non fanno letture, lui, non è pagare, e prima di pagare accertati dei tuoi metri cubi consumati, quindi non avere nessun problema. Fai un casino, so che lunedì c'è una manifestazione via Principessa Ioanda, quindi aggregati alla manifestazione e non è pagare. Che io devo travagliare, non devo stare appresso alla macchina di Giulio, ma quando mai devo pagare 610 euro d'acqua? Ma stiamo scherzando? L'ho pagato a gennaio, l'ho pagata quando era, me l'ho pagata mi pare un mese prima o due mesi prima a Buro. Cavolo, mi ha pagato qualcosa dell'ufficio delle entrate e va a mandare il detto di leva a pagare entro il 28 febbraio, ma ci sono macchi, danno il regalo del detto di euro. No, ma lui le mani ne ha pagato due volte, già hanno fatto la scena suddivisa, 1200 euro, chi che va, 1200 euro di acqua ha pagato, ma ma io non abbiamo più, abbiamo fatto un giro di conti qua, guardando un po' di bollette che ho trovato, che ho pagato, e le ho pagato già, diciamo nel 2007 mi risulta che ho pagato già quasi 800 euro d'acqua io, già pagatemi. Allora, dovete capire una cosa, che il passaggio tra ente pubblico come eravamo noi, quindi ESAF, servizio, praticamente l'ambito territoriale delle acque, c'è stato un passaggio molto molto delicato, che è quello del il costo sull'acqua regionale a quello privato. Allora loro dicono, noi siccome abbiamo fatto, diciamo che è nata questo ambito territoriale delle acque, chiamiamolo così per spiegarmi in parole povere, quindi una società privata, loro dicono, noi per poter incassare i soldi che abbiamo perso nel servizio regionale dobbiamo aumentare l'acqua. Allora tu immaginati che l'acqua oggi da 90 centesimi a metro cubo, 90, costa 1,90 euro a metro cubo, quindi siamo pari a un litro di gasolio, ok? Quindi il gasolio costa quanto è l'acqua della macchina? Il gasolio per autotrazione costa quanto è l'acqua? Uguale, preciso identico, più IVA mi pare che il gasolio costi a 1,260. Se tu conti l'acqua a 1,90, quindi 1,90 centesimi a metro cubo, più IVA e più il servizio idrico, che è quello della lettura contattore e tutto che ci va a dire pagare, siamo a 1,300 euro, ok? 1,300 centesimi. Allora, se a Sassari c'è una rivoluzione francese, commenti un colpo di stato e dici, signori belli, siccome noi pagavamo l'acqua alla regione, a tot, o tu te la vai a pagare agli stessi centesimi o agli stessi euro, alle stesse lire che pagavamo prima, noi siamo d'accordo, altrimenti non ne paghiamo e non te la possono staccare. Scusa, non ho capito bene, tu hai detto un euro a metro cubo, ma sembagliente però, non a metro cubo, Un euro, 90 centesimi a metro cubo costa l'acqua, caro Luigi, contro i 90 centesimi che tu pagavi prima. L'acqua costa 1,90 euro a metro cubo. E 300, a me mi hanno calcolato 384 metri cubi che gli devo pagare, 384 metri cubi. Fai 380 metri cubi diviso 1,90, mi dicanto di rasi. Guarda, se fate 610 mi ha fatto a me il contizio loro. Beh, è normale, è giusto, guarda, lo sto facendo io. Sono 610,12 la tua bolletta, grasso, allora beve. Corovino, grasso. Che Pierpaolo oggi non travaglia, cosa ci puoi comprare? Bombolo! Dimmi! Aspetta, bombola ce n'è andata, va a far culo! Ma io porto la bombola a Luca, che poi facciamo i conti, dai! Va pagato, non hai bombolo! Troppo! Se no fermo mettere i gubbi, gas e Eva! E Luzzi! Comunque ho visto oggi che c'è la protesta sul giornale. La luce quanto è metro cubo qua? Allora, la luce è passata da 35 centesimi a metro cubo a 65 centesimi. Vai tu. In varia. Comunque, scusa un attimo, cra. Sono un metro cubo, sono 1000 litri d'acqua, giusto? Esatto. E beh, 1000 litri d'acqua è un euro, ma no, costerà di più di un euro e quanto hai detto tu, 1,90 euro, quanto hai detto tu? È 1,90 metro cubo sul contatore, sulla lettura del contatore, loro calcolano, sulla lettura del contatore, a metro cubo 1,90 euro. Poi, se tu sei in campagna, che hai addirittura l'irrigazione del giardino, dalla tua linea diretta, paghi lo doppio, paghi 1,90 più 1,30, che è quella di irrigazione. Quindi te la raddoppiani. Ma è un'irrigazione, io faccio quella da uso domestico, ciò. Uso domestico è 1,9. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, l'ho preso. Mi devi far vedere la bolletta, quando magari scendo lì mi fai vedere la fattura e la bolletta e te la calcolo io, perché l'ho già calcolata uno del palazzo e mi ha detto, cazzo è assurdo che io in campagna, non qua, qua siamo, ognuno ha il suo contatore, quindi io pago in base al consumo mio, ok? Però in campagna lui c'ha una casa in campagna lì a San Camillo, no? Un amico qua, e mi ha detto, cazzo, ma è possibile che io pago più a San Camillo che non ci sono che a casa? È normale, perché tu c'hai il contatore di rete che è uno, che ti serve per la rete normale di consumo, in più c'hai il giardino, allora loro calcolano, siccome c'è la nuova legge che hanno calcolato loro, non noi consumatori, loro, no? Fatemi, lo consumo in base al consumo di rete normale di città, in più se tu c'hai la campagna, sempre accatastata, quindi io per esempio ho la casa qua in via Pascoli, no? Poi ne una in via La Malfa ancora, ok, mi calcolano due consumi, che è quello di via Pascoli e quello di via La Malfa, e mi calcolano un consumo idrico d'ogni bimestre, e mi calcolano due bimestri praticamente, e mi fanno due conti separati in un'unica bolletta. Così se tu c'hai la campagna ti fanno la stessa cosa, sei accatastata. Sai cosa è successo qua? Che qualcuno è entrato in quel bagnetto, adesso non so di noi, non so chi è, che il bagnetto, quel bagnetto che ho io la sera sono rientrato dal lavoro e l'ho trovato con l'acqua del lavandino di quel bagnetto lì tutta aperta, tutta al massimo. Ho capo, l'ho chiesto, dice, ma io non ci sono entrato, però non c'è entrato, se no che per portare qualcuno è entrato e te l'ha lasciata aperta, che c'era, che ho sentito il rumore, mi capito, dalla sera ho sentito il rumore dell'acqua, la mattina, ora mi metto dentro un mattino, mi sono sentito il rumore, e quest'acqua è rimasta, mi sembra, tutta dalla... No, la mattina stavo uscendo io, ho sentito il rumore del rubinetto, l'acqua scendendo, la mattina presto, e quella, non so io da che ora della sera, da quando era che ha aperto questo rubinetto al massimo, ecco mi ha consumato un po' di metri cubi d'eva, hai compreso? Quello del bagnetto che ho a fianco al garage. È un problema grande che purtroppo ancora non si può risolvere, dico non si può risolvere perché è un sistema a livello regionale. Il problema è che molte attività, molte case ancora sono a tabelle millesimali, infatti loro dicono portate trovate le nicchie fuori nella strada, cioè i condomini, vabbè tu non sei a quei livelli, però i condomini devono portare le nicchie fuori nella strada, in modo che ognuno abbia il contattore suo. Ok, io l'ho fatto appena sono arrivato qua, in un anno e mezzo io sono riuscito a fare un lavoro che è importante per il condominio, nel senso che quando sono arrivato qua c'era ancora le tabelle medesimali, alla prima riunione ho detto: signori belli, io sono di questo carrozzone. Ah, perfetto, signor Club, va benissimo, ok, vi propongo questo, ma non perché lo dico io, perché per noi va bene così, in modo che ognuno abbia la sua lettura, abbia il suo consumo e sappia quanto deve pisciare e cagare, in parole povere. Ha detto va bene, ok, e così ho fatto. Io sto pagando 32 euro di acqua ogni due mesi, lui, da quando sono qua. Ogni due mesi sto pagando 32, 36, 34, 26, 30, 30, però è acqua che consumo io. Non mi sto, capito, usando l'acqua del condomino, perché le tabelle medesimali sono un casino per i condomini. Per quanto riguarda il sistema tuo, devi vedere un pochino quanto, cazzo, se il contattore tuo è giusto. Loro l'hanno messo il contattore, e nella strada il contattore, cioè il mio è messo all'ingresso della strada, vedi che c'è il corso della cassetta, all'ingresso della strada passano delle cose, come diventano loro. Lui, c'è qualcuno che sta provando a metterti la portante, ma non ci riesce, non copre nessuno. Comunque non ti preoccupare, arrivati, ci vediamo e vediamo un po'. Ha un amico qua, gliel'ho fatta caratterizzare, però mi sembra eccessiva la tua, c'è da vedere qualcosa. C'è un casino di Gesù Cristo, quindi non ti dico che può essere una formula eccezionale, però c'è un casino con questo cazzo di acqua. Vabbè, vediamo un po'. Altro, Pierpaolo dov'è? Qua, sono qua. Cappa, acqua ne bevi tu? Ho voglia. Io no, fortunatamente. Ciao, che anche qua ne hanno mandato anche una di 300 e due ne hanno mandate, neanche un mese, un'altra ancora. Ma in condominio? Che in condominio? No, qua c'ho il mio contattore. Fatti la lettura prima del bimestre, così tu poi, come ha fatto un amico che gli ho detto, praticamente se nella lettura che loro mandano, nella bolletta che loro mandano, nella fattura che loro ti mandano, v'è scritto 300 metri cubi e tu la lettura tua ne hai 200, 100 metri cubi ci rimangiani, non li paghi. Lo sai cosa è? Che non stavo tenendo io le fatture della cosa. Io so soltanto che nel 2007 ho pagato tutto e mi stanno rimandando in pratica da pagare nel 2007. Io adesso quest'anno tengo tutto e pago tutto. Poi l'anno prossimo se mi ritorno indietro al 2007 o al 2008, allora cazzo vuol dire che l'avvocato è pronto. Sì, ma la realtà è quella, Pierpa. Ti ripeto, io che sono nel settore, fortunatamente, per mia fortuna, non lavoro nel settore di sasso, lavoro nel settore dell'angrona, quindi il settore è uguale, è sempre il settore 6, però io appartengo ad un'altra parrocchia. Ma il problema è che, siccome a Sassari c'è un casino di Gesù Cristo che non sanno ancora dove cazzo mettere le mani e i piedi, no? Stanno mettendo più i piedi che le mani. Allora, l'unico consiglio che vi posso dare io è: fatevi voi le letture dei contattori, ovunque sia, condominiale o non condominiale, in modo che potete garantire quando vi arriva la bolletta il vostro reclamo, perché se loro non hanno una lettura vostra vigente non si riesce a togliere i piedi, capito? Ma non sai cos'è? Che io ho deciso di non andarci più lì, perché tanto gli stessi impiegati che ci sono lì, no, è come parlare col muro, non tiri fuori niente. Io so solo che nel 2007 ho anche i risultati delle cose che io ho pagato tutto quanto. Adesso lasciamo correre così e va bene. Però per quest'anno sto mettendo tutto da parte. Ecco. Se io al 2009 mi rimandano di nuovo tutto quanto, questa volta ho deciso, preferisco che andare lì e tanto fare file, che cose, non si risolve niente. È come che stai fanno con un muro. Allora cosa faccio? Al prossimo anno prendo, metto tutto in mano un avvocato e poi lo inici, preferisco pagare, però a questo punto basta, perché tanto i soldi se la stanno buttando talmente tanti, cioè figuriamoci che io faccio tutte le cose pagate del 2006, mi sono fecchiato nel 2006 e faccio tutto pagato, vai lì e non ti sanno dare cioè, la risposta più elementare. Se io ho le bollette pagate, che devo fare? Lo deve pagare, come lo devo pagare? Se ti sto facendo vedere che io ho pagato, ecco, niente da fare, è un muro. Allora questo muro come lo fai? Andiamo con le cose brutte da fare, però lo devi fare. Rossella, per fa, è così. Allora, tu sappi che loro al momento in cui è fatto il nuovo servizio, così chiamato, il servizio integrato per tutto il nord Sardegna, non hanno bucato veri. Tu immaginati che a me, quando ha giubilato il primo stipendio dal passaggio a Esa Fabanova, mi è arrivato a buoni due mesi e non so bene manco di cazzona io vivo. Immagini, dopo 15 anni di servizio non sapevo neanche io ovvero io, perché già il personale è stato tutto fatto a culo di scimmia, per non dire a cazzo di cane, no? Capito? Quindi immagini di Rivolletti, quando è di anni fa un passaggio da Cinos, no? Allora Cinos a Banoa, che prima era Esaf, Cinos a Banoa, alle comitate burgaricate, come ti tu giochi a chi su yogo che fa di grande fratello, la matrice cosa, non ne hanno tolto piedi. A me mi è arrivata una bolletta in via Ugo la Malfa 36, che non sai cosa ho fatto, sono andato in ufficio, l'ho messa sopra il tavolo e ho detto: chi sei tu? Io sono tizio che esce più. Questa bolletta chi l'ha mandata? Il funzionario, chiamami il funzionario, chi è? Tizio, vabbè, chiamamelo. È venuto, dice: buongiorno, lei chi è? Io sono un collega. Ah, questa bolletta chi l'ha fatta? Io. Alla magna dia, Giudito. Ti posso dire anche con lei, hanno messo questi contattori che dice che non c'è più bisogno, che se non trovano nessuno la leggono lo stesso da fuori col computerino, ecco. Invece per esempio quando fai la telefonata che ti lamenti per due o tre mesi ti arriva giusta, dopo riniziano presunte letture, acconti, addirittura adesso è ritornato a Polo. Adesso mi ritrovo addirittura a 150 kW in più, cioè, figurati, mi sembra, l'ho guardato ieri, alla lettura che hanno mandato non è arrivato il contattore neanche a ieri, eppure dice che questi qua non so che cosa erano, boom, ma, cioè, con una continuazione mi dà da culo. Allora mi sono preoccupato, siccome ti sono usato una volta il telefono, due o tre mesi che va bene, poi sempre 100 kW in più, 150 volte 150, i telefoni, ma come vuole che sia, li scariamo nella prossima bolletta, se è così mi dia la lettura, e da due o tre mesi di nuovo rinizia a capo. Quindi a me che bisogna fare le mattesi, d'oro, una cavufonatura, la mattesi va pure tutto a posto, e ho messo, perché ho arrivato a un certo punto, tu me ne prendi i soldi e sono soldi che io ti anticipo a te. Ma se io sgarro invece che pago il ritardo, questo che voglio dire io, se io pago il ritardo, tu al prossimo mese mi mandi l'indennità di ritardo pagamento, invece questi quando prendono soldi da tempo, no, non c'è, come la vogliamo mettere, cioè non pagano mai loro. Non te lo rimborsano, no, Pierpa, ma non te lo rimborsano. Cosa ti rimborsano? E balle ti rimborsano. Ma giumai. Uia, kappa, lascia perdere, lascia. Non ti rimborsano niente, lascia perdere. Non hanno nessuna cosa di nuda, hai capito? Cioè non ne frega niente. Hanno quella come si dice, ti tengono lì e poi sanno che magari tu devi dare quindi non hanno nessun problema di rimborso, capito? Tutto lì. C'è un po' di stazionale. Ok, dai, facciamo girare. Luca riprende K. Guardino, cazzo, faccio una cosa qua. Riprendo subito. Eia, che c'era ancora? Come si chiama? Anto, riprendi. Cappa. Luca. Ah no, ha fatto quel resti. Dici che prenda la bombola, così è. Luca ha fatto quel resti. Cazzo, ma è Barioni, sì. No, ha detto un attimino adesso. No, sta facendo cosa, ma non c'è problema, KK. No, io sto andando col di polo, con quello che ho piazzato, che già va bene, perché la antenna verticale ce l'ho su un'altra banda. Però vedo che già mi sentite, là. Come ti arrivo? Bene a tu? Benissimo, sta toccando sul più. Ah, va, c'è un bicarbonato, allora gli attruba. No, ma che c'è importantissimo, il capo di bufalo, il capo di Cantalano. Oh, vanno andando loco, dai, lasciamo giocare. Però ti copre perché tocca proprio sul 30, è per quello che si copre. Tu tocchi sul più e lui tocca sul 30. Perché lui è macchina, capito? Lui è macchinista, è un macchinista di quelli che il giorno che trovo non le buco le gomme, no. Lo buco 30 lo goffano a usarlo. Sì, vabbè. Lasciamo fare, dai, è pizzino ancora. Ma è pizzino manno, burro. Allora devi finire. Tanto è del convinto una cubaccio di sciù. Oh, via, furetto. Vabbè, mi dispiace, ma insomma, evidentemente c'ha problemi un po' mentali e di poca buona condotta, ma se quando vuole giocare con me o con chiunque di voi, basta dirlo, lui si prepara e dice, ok, pronto, sì, va bene, gioca io, e giochiamo da casa a casa. E non si bonghia sotto casa tua, poi importante a me, sotto casa tua, oppure si bonghia sotto casa mia, poi importante a me. Sai che fanno, ma sta ci fatta chito questo campetto della Mondetta? Campo, prima la Mondetta, ma poi si arroetto dentro il cassonetto la Mondetta. Ma mi pare strano, che sia stato qua, ma non lo so. E lascia perdere, che in tanti anni abbiamo capito tante cose, non c'è problema. Comunque, io sono qua quando vuoi giocare con me, sono pronto a giocare. Da casa sua, non dalla macchina, la macchina di buon sotto casa e l'altri, è chiaro che, ma anche quello da vedere, basta dirlo, ci mettiamo un po' a scegliere sul terrazzo a cambiare il connettore dell'antenna. Ok, vai via il pa, ma chi c'era, tu e poi? C'è anche Gigino Vulcano, vai Gigino Vulcano. Forse sta facendo cosa? Gino gira in della giacchetta, Gigino! Lascialo girare, almeno esce buona. Buona la salsiccia Gigino, ma va bene, non c'è problema. Capito, io ho per pa, bisogna avere una castagnata, che io va, ne ho veramente la vergogna, a me quando a volte mi dicono, in questo periodo sono un po' fuori dal settore, perché sto facendo altro, seguo, sono in direzione ai lavori, qui non me ne fotti nulla, non ho la parte, diciamo, del gestore utente. Però è vergognoso, perché a volte mi chiamano amici, che io sono stato agli utenti, quindi quando mi chiamano gli amici mi sento un pochino in colpa, ma non ho, non so cosa dire, cosa giudicare, cioè Vedere queste cose così allucinanti. Alla fin fine, ma cosa siamo convenienti? Cioè, cosa... Tutta questa cosa, cioè, tutta questa acqua che ho consumato, dove cazzo me l'ho bevuta? Lo so, vabbè, senti che si incontra, perché un'ora e mezza, perché chi non si deve sentire in colpa, giustamente, perché magari sanno, e allora chiedono una spiegazione, che purtroppo le volte è dura da dare, qualcosa quando non si è direttamente, non lo so, però è una situazione un po' critica. Quel tempo che stanno circolando la gente tutta si lamenta, però anche giustamente perché non se ne può più. Voglio vedere, cioè una persona che vive dallo stipendio, cazzo, vedessi arrivare 300-400 euro di bolletta d'acqua è allucinante, cioè noi diciamo così, non avremmo mai fatto nulla di particolare, io ho sempre pagato 30, 36, massimo 40, 40.000 lire, 36.000 lire, 25.000 lire di acqua, delle vecchie lire, oggi mi arrivano sempre quelle 40, 60, ma non è che mi danneggiano più di tanto, ma vedere arrivare bollette allucinanti così, non la voglio avere, però, ti ripeto, l'unica soluzione è aver sempre un riscontro, io quando mi sono trasferito di casa ho fatto tutte le letture, tutte le cose, ho fatto mettere contatto nuovo, azzerato, e da quando io sono un anno e mezzo qua, le bollette che stanno arrivando non sono più di 36, 46, 26 euro ogni bimestre, perché mi vuoto la lettura, quando arrivi tanto, vado in ufficio e via. L'unica cosa che ho fatto, te l'ho detto, l'altra volta, da poco, che mi è arrivata un'imbazzinata a carbonate, che io non ci sto abitando perché la casa è chiusa, sono andato e ho aggiunto un casino di giudizio. Ha detto proprio, sono arrivato a chi ha fatto proprio al computer tolto il sistema operativo. Ha detto magna dira, a Germania lo fa Bilo, a Germania, no, e allora magna te lo ti accompagno io, però magna dira che non te ne vago. Cioè te la to e tu a me mi togli la borsa e le balle a volte pedi, non hai compreso? A tirare lì che a me mi manca a volte pedi o venga in occhi. Il fascio, prima lo cura la guardia notturna, la guardia giurata, vabbè vengo a te e dice bendeggio a te la scrivania e lo computer. Penso di bianco per me, che vado nella stanza picco. Gappa, gappa. E che cosa ti ha detto? Questo lo vediamo, con te e con tua sorella pure lo vediamo. Però ci credono anche un po' prepotenti questa gente. Perché c'è una coltello a parte del manico, tu, capito? Che ragioniere capo, vasi di busci bari, cioè io parlo da dipendente, no? Fa le buste paghe, fa qui, fa là, se una volta due fanno mi servono due giorni di ferie e c'è non ti aga non li vuoi dare, aga, a me tu non li vuoi dare. Allora farò un conto e me la giù a pigliati, non vi sono andato lo mattessi, hai capito? Quindi non è che comandano loro, comandano dove vogliono loro, perché gli utenti purtroppo, parlo in generale, le utenze sono delle persone comuni che non hanno, cosa fanno? Si ribellano? Infatti, ma tu vedrai che ti succede il casino, dillo al direttore generale, succede il casino, va. Che cosa di matti, dai, chi non ti ribago, deva, dillo a venire a camminare, va. Chi come entra nel portone, siccome prima ero in un androne molto grande, questo è molto più piccolo, come entra nel portone, lo prendo e lo chiudo nell'autoclave. E ne prendi anche il telefonino, ho detto ma non c'è nessuno. No, ricordo un colpo di dubbio a capo da 3 pollici, tanto paziente teorema, no? Ehi, vabbè. faccio usare a mano con questi scemi, no? Se la bisogna in culo. Ah, e Antonio, sono gli esauriti. Sto dicendo che è perché ci lavoro, altrimenti lascia per... Perché l'età di Dio, guarda. Io sono... Non ci sono più. Quando ero alle utenze era diverso, perché gestivo cose dove potevo, chiaramente in questo sistema, in questo contesto che c'è adesso, riuscire a fare qualcosa, ma oggi non posso fare più nulla, non muovo più assoluto, stanno castagnando a me, figurati se io posso andare per gli altri. Posso solo dare un consiglio: fatevi le letture dei contattori, ce li avete tutti, perché i contattori non mi può dire nessuno che non ha il contattore. Tu fai la lettura ogni mese e poi un fogliettino te lo metti a parte. Quando ti arriva la bolletta c'è il bimestre, la guardi. Il primo mese quanto hai consumato? 100 metri cubi. Secondo mese quanto hai consumato? 120, devono essere 220. Se il bimestre che manda a loro è di 270, lì lì c'è prendersene nel culo. Questa è la mia lettura e tu vai da giù e ce li pace. E non ti vai di nuda, Eva, non ti ritaccani e non li paghi. Punto e basta. Trappa? Vabbè, già non credo. Ma fagli una cortesia, ma lì a Carboassi, io so che molti condomini hanno un serbatoio unico per tutto il palazzo, ma vero? Esatto, nella casa che ho a Carbonati ci sono i 30.000 litri, 15.000 belle integrazione di consumo e 15.000 sono per l'antincendio, capito? Quindi sono 15 più 15, sono 30.000 litri d'acqua, perciò è di buona età. Inizio mi tebbiasi, buone vaghe, se tebbiasi, levano a me attacca nessuno. A me quando era carbante mi è mancata l'acqua. Qua, da quando sono qua, non è mezzo, già mancata due volte, ma perché so che c'erano dei lavori a Monte Oro, condotte e ballevare, quindi a me mi avvisa, no, è la verità, quindi mi riempio la vasca e non ho problemi. Però è già mancata due o tre volte, mi sembra, in un anno e mezzo. Di là non è mai mancata in 23 anni. Ti credo, se c'è serbatoio è logico che non manca, però boh, secondo me questo serbatoio unico per tutti e il subuntatore unico per tutti è una cosa un po' sbagliata. Allora io cosa ne so così chi ti ha consumato di più? Si conferma, tu hai pienamente ragione, tanto è vero che ho sempre lotta. Tu immaginati che nella casa che io, la mia non ce l'ho più, quella è mia suocera che era sotto di me, che è chiusa perché lei non ci abita più, sta pagando condominio, acqua, luce, scale, lavori del condominio e tutto. E a parte il resto delle cose che ci sono, va bene, ha detto, sono problemi tuoi, se li vuoi pagare li paghi, perché lei non ci abita, però la casa è ancora lì. L'acqua la sta ancora pagando a millesimi, quindi a tabelle millesimali. Cazzo, ma se io non ci abito, non ne sto consumando, perché devo usufruire delle tabelle millesimali degli altri? E le paghendi ogni a due mesi le arrivi 30 euro, 26 euro, 21, 10, 19, 28, dipende dal consumo che c'è nel condominio, e lì gliela mandano a tabelle millesimali, capito? Per carità, è un casino con queste cose qua, è un casino. Ecco Claudio, ti volevo chiedere una cosa, un dipolo come il tuo, quanti batti resiste? Il mio, quello che ho per le 10, 20, 40, 80 resiste 3 kW. Lo sai, Fago. È da 8 mm quadri sul piano di massa e 12 mm quadri sul polo caldo. Oh, bene. Anto, io ho un amplificatore da 3 kW, non è che ho un amplificatore da giocattolo, ma stiamo parlando di bande amatoriali, se poi parliamo di banda cittadina, puoi farlo anche da 6 mm quadri, io ce l'ho e 1000-1500 watt li tiene. scappa. Solo la Mantova tiene una cosa del genere. Però non mi conviene dargliene troppo, perché sennò sfiamma, quanto ne so io. Guarda, l'unica antenna che non sfiamma è Luca La Vita in garage, qual è? È quella che ho io, che è una stella Super 24, si chiama. Cioè 24 radiali, tutti in alluminio, con un bicchiere in ceramica, e l'interno della ceramica, tu lo vedi perché è trasparente, ha una bobina in rame di quello dorato, che tiene 4 kW. È forte quella antenna, va bene. Ma grande quanto l'avanto. Del genere c'ha tutti i radiali intorno. Esatto, c'ha praticamente lo stilo centrale, che mi pare che sia appena più basso della Mantova, e poi ha questo bicchiere proprio fatto in ceramica che Luca ha visto per la fine al mondo, e 24 radiali, ne ha 12 corti e 12 lunghi, che sono tutti in cerchio al raccordo, tipo la Mantova, no? Una cosa del genere, capito? Zappa, ho capito, tipo la Turbo, dai. Ma sai che io quella l'ho vista una volta, non mi ricordo in che via è, però l'ho vista. Questa che ho io l'ho comprata nuova alla fiera di Milano e non l'ho mai piazzata, mai, tanto è vero che avevo deciso di montare questa per i 10 metri e usare la Mantova per farmi due chiacchiere qua, ma siccome non me la futti nuda, esco bene lo stesso. Io adesso tu immaginati che sto scendo con di polo i 10 metri e 40, ed è puntato sopra. Purtroppo, no, per colpa mia, ma purtroppo è puntato sopra di te, no? Perché è aperto verso il nord e quindi siccome tu sei in mezzo lo prendi in pieno. Ma io non sto uscendo con la Mantova, sto uscendo con dipolo di 10 metri, questo dipolo tiene 6 kW. Forte, ma sono di quelle tipo catenella, no? Questo è un dipolo fatto a tre bracci orizzontali, con le aste praticamente tutte verticali in tubo di polietilene. Ce ne sono 20 e 20, sono 40, 40 e 40 sono 60. Sono 60 tubi in polietilene, tutti raccordati tra polo caldo e polo freddo. È buono, proprio va bene come di polo. Io ho tante in acqua, però mi sono accorto, già mi difendo bene. Ah, vai benissimo, non ti preoccupare, alla grande. Vai bene, quasi 9 più 30, tranquillo, sereno. Non ci sono problemi. No, questo è un dipolo che io uso per i 10 metri, adesso ho sentito a Luca giocando e facendo, quindi sono, ma mi fa piacere, intanto vi faccio scaldare la radio, perché non è che la uso molto questa, questa è una radiolina che uso esclusivamente per ascoltare a voi. E va bene Antu, va bene, tieni conto che io ho 12 e 12 sono 13,50 m per braccio, quindi vattelo conto, è manno, non è piccolo, è grande, è grandissimo come di polo, però funge, in 10 metri balla al colasson. E te credo, balla anche bene. E tu c'è la possibilità anche di metterlo su e tutto quanto, così che balla ancora di più. E se non balla, tu lo fermo guardare, no? Fermo balla. Se io avrei avuto la possibilità di mettermi questa qua sul tetto, qualche cosa in più, sarei riuscito a uscire ancora meglio. Però no, non posso, purtroppo, perché c'è la situazione. Ma ho notato che mi difendo bene, non mi posso lamentare. Hai vieni busciane, alla grande, arrivate tutte e due, sia tu che Pierpaolo qua, perlomeno a casa mia, il segnale 9.30 al tuo e 9.40 a quello di Pierpaolo, quindi siamo a livello di grandi antenne, non ci sono problemi. Quello che continua a disturbare a fare deve un po' capire che il sistema non è quello, comunque è un po' profano, non aggiungo altro, ma sappi che so perfettamente qual è la tua posizione, qual è, chi sei, chi non sei, no, me la fotti un po', a me non mi disturbi, ne rimani a fare caso ancora per disturbare me, va bene. Ti saluto che mi guardo un po' lo sport e al limite ci sentiamo, sei qui giro stasera, quando era. Saluto a Pierpaolo, ciao Luca, se ne ascolto, Luigi Vulcano, chiunque fosse in ascolto. Mi ritiro in buona armonia, grazie per l'intervento Antonio e per il questo soprattutto. Ci accettiamo di mettere stanotte, stasera, eccetera, eccetera. Ciao, ciao. Riprendo io là. Ciao, caro. Intanto stiamo uscendo anche noi, che stiamo andando a fare una commissione. Ci risentiamo tutti alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, Pierpa. E fatti vedere, ti ho letto, di fronte all'ACI. All'ACI, ti dica. Già le faccio vedere. Comunque, dopo già, quando esco, già siamo in ascolto lo stesso. Pappa gappa, vabbè là, ciao Cla, ti saluto, anch'io faccio un piccolo guerretti, dai, ciao ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti, alle prossime, ciao.